Focus Economia. Un saluto e bentrovati da Vincenzo Miglietta. 17.06, tutto secondo previsioni per le stime di metà anno per il prodotto interno lordo. Gli analisti non nutrivano molte aspettative, lo sapevamo, sulla capacità di crescita nel secondo trimestre dell'anno e purtroppo hanno avuto ragione. PIL di fatto invariato sul trimestre precedente, mentre fa segnare un più 0,7% sullo stesso periodo del 2015. Si tratta di una frenata rispetto al primo trimestre, quando la variazione del prodotto interno lordo era stata pari a più 0,3% su base congiunturale e più 1% su base annua. Nel nostro primo approfondimento della puntata di oggi di Focus Economia cercheremo allora di capire cosa ha frenato il nostro paese e cosa dobbiamo aspettarci per la seconda parte dell'anno. Inevitabilmente i dati del PIL italiano di oggi e gli altri dell'Eurozona hanno condizionato l'andamento dei listini, che si sono mossi con molta timidezza. Uno sguardo veloce allora a Piazza Affari: in questo momento FTSE MIB più 0,16%, i migliori e i peggiori al momento proprio del FTSE MIB. Beh, guardiamoli insieme. Buzzi, Unicem, Jux, Atlantia, Saipem e Monte dei Paschi di Siena tra i migliori. I peggiori sono invece ricordati Unipol, Banca Popolare Emilia Romagna, Unipol, Sai, Generali Assicurazioni. Gli altri listini europei: DAX Francoforte meno 0,29, Londra più 0,04, CAC40 Parigi più meno 0,07, Wall Street ora ieri seduta record con performance di Dow Jones, Standard Poor's 500 e Nasdaq, che non si vedevano così tutte insieme dalla fine degli anni 90. Oggi andamento sostanzialmente sulla pari: Dow Jones meno 0,07, Standard Poor's meno 0,02, Nasdaq meno 0,04. I cambi ora euro su dollaro in questo momento 1,117,9.4. Altri temi che affronteremo oggi: la Banca d'Italia ha chiuso la filiale di Roma della banca lettone ucraina AS Private Bank. Dietro a remunerazioni allettanti e fuori mercato si ipotizza ci fossero spostamenti di denaro non propriamente pulito. E poi altro tema: la pressione del commercio online su quello tradizionale, con effetti ormai evidenti a partire dalla crisi di grandi catene internazionali. Vedremo il caso dell'americana Macy's. Questo dunque il nostro sommario. Potete scriverci al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve che apriamo con le materie prime. Il petrolio più 0,7% a $43,8 il barile, poi l'oro più 0,5% a $1,349 l'oncia. E guerra dell'oro fra Goldman Sachs e JP Morgan nel tentativo di rivoluzionare il mercato dell'oro di Londra, che vale 5.000 miliardi di dollari. Le due banche americane si scontrano, lo riporta il Financial Times. Goldman Sachs, con l'alleata cinese ICBC, sostiene un piano per trasferire gli scambi sul metallo prezioso su una piattaforma così da aumentarne la trasparenza, dicendo addio al criticato sistema di contrattazioni private fra le banche. JP Morgan, insieme a HSBC, punta invece a mantenere l'attuale sistema e appoggia l'iniziativa della London Billion Market Association per migliorare la trasparenza. La battaglia per il mercato dell'oro di Londra arriva mentre il metallo prezioso ritrova popolarità, con i prezzi saliti quest'anno del 26%. Restiamo nell'economia internazionale. Oggi nel mondo ci sono più giovani che in qualsiasi altro momento della storia, sono 1,8 miliardi, quelli tra i 10 e i 24 anni, eppure oltre 500 milioni di ragazzi tra i 15 e i 24 anni vivono con meno di $2 al giorno, e moltissimi di loro sono esclusi dai processi decisionali e sempre più esposti all'impatto delle crisi economiche. A rivelarlo è il nuovo report di Oxfam: i giovani e la disuguaglianza. È tempo di rendere le nuove generazioni protagoniste del proprio futuro, diffuso oggi in occasione dell'International Yacht Day e in concomitanza con l'inizio del World Social Forum di Montreal. Il report, lanciato da Oxfam nel quadro della campagna Sfida l'ingiustizia, mostra infatti come siano proprio i giovani ancora oggi più colpiti dagli effetti della crisi economica internazionale iniziata nel 2008. Tassi di interesse Fed. Un aumento dei tassi di interesse nel 2016 è assicurato, lo afferma John Williams, presidente della Fed di San Francisco, in un'intervista al Washington Post. Una strada graduale per rimuovere la politica monetaria accomodante è appropriata. Dobbiamo rimuovere gradualmente il piede dall'acceleratore. Abbiamo adottato una politica monetaria molto accomodante negli ultimi anni e con l'economia che si avvicina ai nostri obiettivi possiamo rimuovere il piede dall'acceleratore ed eseguire un atterraggio morbido. Ancora Stati Uniti, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti in luglio sono rimaste invariate. Al netto delle auto sono calate dello 0,3%, il dato è peggiore delle attese degli analisti che scommettevano su vendite al dettaglio in aumento dello 0,4%. JCPenney chiude il trimestre in rosso. La catena di grandi magazzini a cui fa capo il marchio Sephora chiude con un rosso di 56 milioni di dollari su ricavi in aumento dell'1,5% a 2,92 miliardi di dollari. Il rosso di JCPenney conferma le difficoltà del commercio al dettaglio ed è proprio questo uno degli argomenti di Focus Economia di oggi, in crisi con il boom dello shopping online. E arriva dopo l'annuncio di Macy's che chiuderà altri 100 negozi, quello di Kohl's che ha rivisto a ribasso i target per il 2016 è quello di Nordstrom che taglierà i prezzi per liberarsi dei prodotti in eccesso. Ed oggi è giornata di dati non solo per quanto riguarda il PIL italiano, l'Eurostat, ma anche dalla Cina, e allora deludono i dati macroeconomici resi noti in Cina nel corso della nottata. A luglio la produzione industriale è salita del 6% a fronte del 6,2% atteso dagli economisti. Gli investimenti in asset fissi sono aumentati dell'8,1% nei primi 7 mesi dell'anno contro previsioni di crescita dell'8,9% e le vendite al dettaglio sono salite del 10,2% sotto il 10,5% atteso dagli analisti. E i dati, segnala Bloomberg, parliamo sempre della Cina, sono tutti in rallentamento e fanno sorgere preoccupazioni sulla stabilizzazione dell'economia cinese. La più grande preoccupazione è rappresentata ancora dagli investimenti fiacchi, ha commentato Zhu Hao, senior economist di Commerce Bank a Singapore. Produzione industriale ed Unione Europea, dunque questo dato è in aumento dello 0,6% nell'Eurozona a giugno rispetto al mese precedente quando si era registrata una frenata dell'1,2%, lo rende noto Eurostat indicando che nello stesso periodo nell'Eurozona sono cresciuti dell'1,1% mentre nell'Europa 28 l'aumento è stato dello 0,5%. Su base annuale, ovvero rispetto al mese di giugno 2015, la produzione nei 19 paesi della valuta unica è cresciuta di più 0,4%. Includendo il meno 3,5% del settore energetico, mentre i beni capitali sono aumentati di più 1,1%, i beni di consumo durevoli e non di più 0,9% e i beni intermedi di più 0,4%, situazione in controtendenza in Italia, dove la produzione a giugno è calata dello 0,4% rispetto a maggio. Ci avviciniamo al nostro primo approfondimento dove parleremo del prodotto interno lordo dell'Italia, lo confronteremo con gli altri dell'Eurozona. Allora vediamo subito la Germania. Il PIL della Germania è cresciuto nel secondo trimestre del 2016 dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Il dato è migliore delle previsioni degli economisti che si attendevano una crescita dello 0,2%. Rispetto al secondo trimestre del 2015 il PIL è aumentato dell'1,8%. Nel primo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo della Germania era cresciuto dello 0,7%. E vediamo cosa c'è dietro a questa performance positiva. Vista la media dell'Europa, della Germania, la crescita del PIL tedesco del secondo trimestre è stata trainata in primo luogo dalla crescita netta dell'export, oltre che da un aumento dei consumi del settore privato e di quello pubblico, mentre gli investimenti in macchinari e nelle costruzioni sono scesi. E quanto rileva l'ufficio di statistica tedesco in occasione proprio della diffusione dei dati di oggi, i numeri del secondo trimestre sono piuttosto sopra le attese e sottolineano il trend economico relativamente robusto della Germania, ha commentato il capo economista della Bundesbank, Stefan Kohns. E fa meglio delle attese anche la Grecia, che nel secondo trimestre registra un incremento del PIL dello 0,3% sui primi tre mesi dell'anno, a fronte di stime che indicavano una contrazione dello 0,2%. E arriviamo alle note dolenti del nostro paese. Lo dicevamo in settimana, in un'altra puntata di Focus Economia: quando le cose vanno bene per tutti, per l'Italia vanno sempre un po' meno bene; quando vanno male, l'Italia è la prima a tirare il treno. Allora vediamo oggi dove il PIL è andato bene o male positivamente un po' per tutti. Invece il nostro dato: nel secondo trimestre il prodotto interno lordo italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,7% nei confronti del secondo trimestre del 2015. Il secondo trimestre del 2016, precisa l'Istat, ha avuto una giornata lavorativa in più del trimestre precedente e una in più rispetto al secondo trimestre 2015. La variazione acquisita per il 2016 del PIL italiano è pari a più 0,6%, ricordiamoci questo valore, perché il governo, se non sbaglio, lo prevedeva a fine anno al più 1,2%, invece se non cambia nulla, da qui a fine anno si arriverà a un PIL del più 0,6% e dovremo fare i conti, soprattutto il governo, con questo dato. Vediamo ora le entrate tributarie, dato Banca Italia. A giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 45,1 miliardi, 41 miliardi nello stesso mese del 2015, lo rileva Banca Italia, sottolineando come nei primi sei mesi del 2016 questa voce sia stata pari a 197,4 miliardi, in crescita del 5,5% rispetto al corrispondente periodo del 2015. Al netto di alcune disomogeneità contabili e temporali, riguardanti principalmente l'IVA e le imposte auto liquidate, viene rilevato, si può stimare che la crescita sia stata sensibilmente inferiore. Due buone notizie: la prima riguarda l'estate, il Ferragosto 2016 da tutto esaurito, presenza in miglioramento perfino rispetto ai dati dello scorso anno, anno che è stato, lo ricordiamo, del recupero del mare italiano, forse ai livelli dell'ottima performance estiva del 2012. Sulle spiagge italiane, insomma, torna l'immancabile binomio Ferragosto-Ombrellone. A indicare un Ferragosto d'oro, un'estate da raccontare, sono i balneatori della CNA, secondo un'indagine effettuata dalla stessa Confederazione, che punta i riflettori sul periodo più caldo dal 13 al 21 agosto, quello in cui i vacanzieri sono disposti a spendere di più e che orienta quindi i conti turistici dell'intero anno. Alla vigilia del Ferragosto gli stabilimenti di molte regioni sfiorano il sold out, si va dal 98% di posti prenotati in Liguria e Sardegna al 95% di Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Puglia, Sicilia e Toscana, dal 90% di Campania e Veneto all'85% di Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Molise. Questa è veramente una buona notizia: Eni sta procedendo al riavvio dell'attività del centro olio Val d'Agri, il cosiddetto COVA di Viggiano, e alla successiva e progressiva riapertura dei pozzi di produzione ad esso collegati, lo si legge in una nota del cane a sei zampe. E per le notizie in breve è tutto, noi passiamo al nostro primo approfondimento. Nostro primo approfondimento che dedichiamo ai dati oggi dell'Istat, ai dati del PIL. Li abbiamo già illustrati abbondantemente nelle nostre notizie in breve, ma lo faremo in maggiore misura ora nel nostro primo approfondimento, e ci aiuterà a capire dove sta andando la nostra economia e perché ha frenato rispetto al resto dell'Europa. Andrea Goldstein, Managing Director di Nomisma. Buonasera Goldstein. Buonasera a voi. Allora, un suo primo commento a questi dati di oggi: credo che non sia rimasto sorpreso, perché la frenata italiana era ampiamente prevista, forse quello che ha sorpreso è la media europea degli altri stati. Assolutamente, l'ampiezza della frenata è sorprendente, perché in fondo il resto d'Europa continua a crescere anche se a livelli inferiori rispetto all'inizio dell'anno. Non dimentichiamoci in più che l'Italia cresce poco dopo essere invece è stata l'economia che più si è contratta dopo la crisi, quindi anche il potenziale di crescita italiana in teoria dovrebbe essere superiore, quindi sono tutti dati che ci dovrebbero fare preoccupare per il resto dell'anno e per la manovra di autunno. Ecco, dati, lo anticipava giustamente, che dovrebbero far preoccupare perché il governo lo ha ripetuto più volte, anche il Presidente del Consiglio. Più il paese cresce, più automaticamente si generano, per effetti economici vari che non andiamo a ricordare, risorse da poter impiegare. Allora, per arricchire il nostro dibattito, dico subito che vi sono i commenti da parte del Ministero del Tesoro. Il Tesoro dice: il dato sul PIL fermo non costituisce una sorpresa, lo afferma quindi il Ministero dell'Economia. Dipende da fenomeni come, tra l'altro, la minaccia del terrorismo, la crisi dei migranti e la Brexit, che erano noti da tempo. Rispetto all'impatto sulle prospettive di crescita dell'Italia, diverse fonti di governo, compreso il MEF, avevano già segnalato che le stime di crescita formulate ad aprile con il DEF sarebbero state messe in discussione da questo nuovo scenario. Però sin qui, ecco, un commento abbastanza diplomatico del Tesoro. Ma il viceministro Morando invece si espone e dice: ora scelte più difficili, l'1,2% di fine anno è a rischio. Allora, Goldstein, cosa mette in crisi il dato del PIL di oggi? Il fatto che i consumi continuano a essere abbastanza fiacchi, perché ci sono stati degli effetti una tantum legati al Jobs Act, legati agli 80 euro, legati ad alcuni incentivi, ma una volta che questi incentivi, queste misure di politica economica hanno perso il loro effetto immediato, i consumi stanno stagnando, anche se quantomeno nel caso del acquisti di autovetture continuano a essere positivi. E in più rimane il buco nero dell'economia italiana, che è costituito dagli investimenti che non riprendono, e finché non riprendono non riprenderà l'occupazione, non riprenderà la crescita dei salari, non riprenderanno i consumi. Ahimè, il quadro è relativamente semplice dal punto di vista, come dire, aritmetico e tecnico. È quello che è difficile, è prendere le decisioni politiche giuste in questo momento, e in cui, come giustamente dice il MEF, il contesto internazionale è diventato più complicato. Ma non dimentichiamoci che questi sono i dati del secondo trimestre, che certo si è concluso 7 giorni dopo il Brexit, quindi dare tutta questa responsabilità al referendum inglese mi sembra un po' pretestuoso. Ecco, sicuramente credo che la Brexit c'entri poco, forse può entrarvi maggiormente la preoccupazione internazionale, ma anche i costi che sono stati sostenuti per il terrorismo internazionale. Allora, dicevamo, un dato che sull'anno fa un più 0,7%, ma quello che va a preoccupare è proprio la frenata degli ultimi tre trimestri, perché se non sbaglio il primo trimestre dell'anno sul trimestre precedente aveva avuto comunque un più 0,3% e poi vi è stata la frenata. Perché secondo lei vi è stata proprio in questi primi mesi dell'anno? Oltre agli elementi che abbiamo già detto, quindi terrorismo internazionale, cioè a livello italiano specifico. A livello italiano c'è poca fiducia nel fatto che le riforme che sono state messe in campo, che sicuramente sono importanti, possano avere degli effetti duraturi nel tempo e permanenti, sia a livello di consumi, per i quali è necessaria maggiore fiducia da parte dei consumatori, cioè dei lavoratori, nelle prospettive di crescita dei propri salari, sia dal punto di vista delle imprese, che da un lato vedono un mercato interno che è ancora a fiacco, dall'altro ovviamente iniziano a preoccuparsi per quello che sta succedendo a livello internazionale. Questo è l'elemento, tra l'altro, che dovrebbe farci preoccupare. Il contributo netto delle esportazioni in Germania è già diventato negativo ed è probabile che questo abbia un aspetto di trascinamento anche in Italia, dove per il momento nel secondo trimestre l'unica nota positiva è venuta dalla domanda estera. Certo, il Financial Times guarda già ai prossimi mesi e dice: l'economia italiana si ferma nel secondo trimestre, in quello che è un colpo al premier Matteo Renzi. Il Financial Times immagina già ripercussioni sul referendum costituzionale, mentre proprio voi di Nomisma, Goldstein, leggete giustamente, come lei poi ci stava anticipando, che non si potrà avere una ripresa decisa senza un recupero di competitività. Cosa vuol dire questo per il nostro paese? L'Italia ha dei problemi che vengono da 20 anni di politiche non certo molto virtuose, quindi non si può ovviamente aspettarsi da questo governo, che ha fatto molto, di poter risolvere i problemi con una bacchetta magica. Abbiamo dei problemi di competitività che sono diversi dai problemi di costo del lavoro e di costo della produzione. Abbiamo un problema di competitività perché le imprese sono piccole, abbiamo un problema di competitività perché la nostra manodopera sta invecchiando e non ha gli skills che hanno i nostri competitors, abbiamo una dotazione di infrastrutture sia fisiche che intangibili, che di nuovo è vecchia, sta scontando anni di sottoinvestimenti, non abbiamo i tecnici capaci di utilizzarli nella maniera più adeguata, abbiamo un deficit di competenze manageriali, insomma sono problemi vasti che non verranno risolti con un colpo di bacchetta magica, ma bisogna continuare a perseverare, soprattutto in questo momento in cui c'è, potrebbe essere la tentazione invece per motivi anche politici di allentare la presa, invece bisogna continuare con uno shock di competitività e di concorrenza che è quello che ci si aspetta da anni e che non viene. Diciamo che la vicenda ormai lunghissima della non approvazione della legge sulla concorrenza è testimonia il fatto che forse le priorità dovrebbero essere meglio chiarite. Ecco Goldstein, questi sono i buchi neri, chiamiamoli così, della nostra economia, li conosciamo da diverso tempo, però mi domando, con l'economia europea soprattutto così interconnessa sia a livello di mercati, ma anche molte aziende che poi producono in Germania hanno dei prodotti italiani, viceversa, cioè i singoli prodotti non escono più poi made in un singolo stato, com'è possibile che questi dati di oggi di Eurostat penalizzano soprattutto il nostro paese, perché comunque al di là della Germania che ha una performance molto positiva, gli altri non stanno così male. No, assolutamente non stanno così male, perché come te dicevo è preoccupante il fatto che per il momento l'unica parte dell'economia che tiene è quella che è legata alle catene globali di valore a cui lei faceva riferimento, ma nel momento in cui la domanda cinese di prodotti europei di alta qualità che incorporano componenti italiani inizia a flettere e anche negli Stati Uniti potrebbero esserci dei segnali di indebolimento della domanda, preoccupa il fatto che il resto del settore produttivo italiano, quello più vocato al mercato interno, non riesca a prendere la staffetta. Quindi per appunto siamo in periodo olimpico, abbiamo alcuni buoni atleti, ma non tutto il sistema riesce a tenere lo stesso ritmo e abbiamo visto in tante gare in queste Olimpiadi che bisogna la squadra, il sistema, come al solito, il sistema paese è quello che ci fa perdere delle opportunità. Ecco, il sistema paese che va rivitalizzato, di ieri i prezzi dell'Istat, anche qui vi erano dei dati non esaltanti, anche se la cosiddetta deflazione, anche questa era in leggera frenata, quindi un rialzo leggero dei prezzi potrebbe indicare un ritorno comunque ad una domanda interna. La domanda interna è ancora economicamente importante per un paese, torniamo sempre al discorso ormai delle economie globalizzate. Il mercato italiano, la domanda interna, può muovere qualcosa? Beh, i consumi sì, sicuramente, gli investimenti, i consumi, quindi la domanda interna, sono ovviamente legati alle dinamiche dell'economia globale, gli investimenti delle imprese italiane le fanno se hanno poi delle prospettive di crescita sui mercati globali, i consumi tengono fino a quando i lavoratori italiani sono pagati con degli stipendi alti perché sono capaci di produrre tanto nella concorrenza internazionale, quindi torniamo come al solito ai fattori sempre strutturali, sono quelle le debolezze del paese, poi da un semestre all'altro vediamo, da un trimestre all'altro in questo caso possiamo vedere dei movimenti che ahimè vanno nel senso sbagliato, ma così come non era il caso di eccitarsi troppo quando ci sono state delle letture trimestrali più positive, non è questa la fine del mondo, quello che preoccupa è appunto che non si vede un'inversione di tendenza e soprattutto che in questo contesto il margine di manovra della politica fiscale rimane ridotto. E come il Presidente della Banca Centrale Europea ha ripetuto più volte, non ci si può aspettare dalla politica monetaria che tenga in piedi le sorti dell'economia europea e soprattutto di quella che in questo momento è la più fragile tra le grandi economie europee, che è la nostra. Ecco, dicevamo un PIL con questi andamenti mette in difficoltà il governo nei suoi fondamentali. Allora, per quanto riguarda il debito, segnalato oggi da Banca Italia, nuovo record, la privatizzazione di ENAV ha ottenuto un buon risultato nonostante il clima generale dei mercati, il piano di cessione di un'ulteriore quota di azioni di Poste Italiane fornirà un contributo utile ad avvicinare gli obiettivi fissati ad aprile, lo afferma sempre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ancora il Vice Ministro Morando, per quello che riguarda il volume globale del debito non mi pare ci siano sorprese, siamo relativamente tranquilli. Però in realtà il PIL con questi andamenti mette in difficoltà anche proprio il famoso rapporto deficit PIL. Goldstein a settembre, ottobre vi è la legge di stabilità, vi è il cantiere delle pensioni. Quale potrebbe subire maggiori ritardi, secondo lei? Qual è la riforma annunciata che potrebbe subire maggiori ritardi da questa frenata del PIL? Ieri, per esempio, sono usciti anche 2 giorni fa i nuovi investimenti del CIPE. Beh, io spero proprio che in un momento di frenata dell'economia nessuna delle riforme subisca una battuta d'arresto. Al contrario, è un discorso che si fa da anni, che viene invocato a pieni polmoni soprattutto dalle organizzazioni internazionali come il G20, l'OCSE, il Fondo Monetario, quello che è nei momenti di difficoltà che bisogna tirare fuori gli artigli e continuare con le riforme. Alcune riforme sono dolorose, per il momento le riforme più dolorose sono state sicuramente quelle del mercato del lavoro e delle pensioni. È ovvio che a questo punto bisogna cercare di fare delle pensioni che ledano anche dei diritti acquisiti di settori più privilegiati della popolazione, e quindi si vada ad attaccare di più altri settori dove manca la concorrenza, e ce ne sono tanti che vanno dai trasporti pubblici locali, ai servizi pubblici locali in generale, alle professioni liberali, in cui il gap di competitività, di concorrenza, di produttività rispetto al resto d'Europa è molto ampio. Io in questo momento mi trovo in Olanda, dove i servizi pubblici locali sono stati tutti privatizzati, sono in mano a delle società internazionali che funzionano ovviamente benissimo, anzi sento di dire che funzionano meglio che in Italia. Che in Italia, certo. Quindi si possono fare un sacco di cose ancora, non è che abbiamo esaurito il cantiere delle riforme strutturali, ci sono un sacco di cose che si possono fare ancora guardando un po' l'esperienza altrove. Guardiamo l'esperienza delle grandi opere pubbliche, è possibile che per fare San Gottardo i svizzeri siano riusciti a finire i lavori in anticipo e noi invece riusciamo ad avere ritardi su una linea che è piatta come quella che va da Chiasso a Milano, per cui tra qualche anno ci sarà un buco nell'alta velocità, certo, tra Torino, certo, e Bologna. Questi sono i problemi a cui bisogna trovare una risposta. Le domande sono tante anche in funzione dei dati diffusi allora oggi dall'Istat sul prodotto interno lordo. Grazie ad Andrea Goldstein, Managing Director di Nomisma. Noi ci fermiamo per il meteo. Focus Economia. Nuovo insieme Focus Economia 17.35, parliamo di banche, di un caso particolare. Martedì scorso la Banca d'Italia ha comunicato di aver avviato la chiusura della succursale italiana della banca lettone AS Private Bank dopo aver riscontrato gravi violazioni alle norme antiriciclaggio e il rischio di reiterazione delle irregolarità. In una nota di Banca Italia si spiega che la filiale dell'istituto lettone, controllata al 46% dalla banca ucraina Private Bank, potrà esclusivamente effettuare operazioni al fine di consentire alla clientela il ritiro delle proprie disponibilità o il trasferimento delle stesse presso altri intermediari. Il provvedimento è stato adottato, spiega Banca Italia, a seguito di verifiche ispettive condotte dal 16 marzo al 6 aprile 2016, dalle quali sono emerse gravi violazioni alla normativa in materia di antiriciclaggio con rischio di reiterazione delle irregolarità. Insomma, parliamo di questo caso perché sono mesi che le banche sono sotto i riflettori per tanti motivi. Tanti risparmiatori sono sempre più scettici nell'affidare i propri fondi agli istituti, se poi ci si mettono anche delle banche straniere a metterci difficoltà diventa tutto più difficile. Di questo argomento parliamo con il collega del Sole 24 Ore Fabio Pavesi, che ne ha scritto proprio sul quotidiano. Buonasera Fabio. Buonasera a te e agli ascoltatori. Fabio Pavesi, collegato con i nostri studi di Milano. Allora Fabio, raccontaci bene questo fatto, tra l'altro di questa banca lettone che aveva l'unica filiale proprio qui a Roma. Beh, direi che è quasi un caso di colore, se non di costume, data la dimensione non rilevante, ma è un caso segnaletico, simbolico. Cioè già questa banca, come dire, al di là dell'iniziativa forte presa da Banca d'Italia, io sono andato poi a verificare l'architettura societaria e scopri che è una banca che ha base in Lettonia con circa 16 filiali e però è posseduta per la quota di maggioranza relativa da un gruppo ucraino, e quindi già questa architettura, banca lettone quindi con valuta in euro, da poco, da un paio d'anni la Lettonia è entrata nell'euro, e capogruppo però che sta a Kiev con la moneta grivna ucraina, grivna, sì. Già questo si prestava, come dire, a qualche, come dire, interpretazione malevole. Cioè, cosa ci fa una banca che è guidata da un gruppo ucraino che sta a Riga e che ha un'unica filiale in Italia, che tipo di mestiere può fare una banca di questo tipo? Cioè, sono quelle vicende di cui ogni tanto leggiamo, di iniziative che prende o la Consob o Banca d'Italia su intermediari sospetti. In questo caso è bastata un'ispezione di soli 15 giorni, quindi direi molto breve, per rilevare subito la vera natura probabilmente di questa banca. Cioè, chi apre un conto lì non lo fa, come dire, perché è una banca normale, apre un conto lì forse per altri scopi, e la Banca Italia tra le righe lo fa ben capire. Cioè lì il tema è il riciclaggio, insomma, per arrivare a chiudere la filiale, un provvedimento comunque molto forte, evidentemente, come dire, la vera natura di quella banca non era il deposito del denaro e la creazione di prestiti, ma era probabilmente un giro di denaro sporco, insomma. E la vicenda, ripeto, è grottesca. Perché uno si chiede, appunto, ma una banca di questa natura, uno, come ha fatto ad aprire in Italia, due, qualche sospetto proprio per questa strana triangolazione doveva esserci. Le filiali ne aveva una in Italia, Roma, in via Vespasiano, e poi sì, aveva filiali in Portogallo e a Cipro. Allora, in tutta l'Unione Europea uno ha una banca a Riga che ha filiali a Portogallo e a Cipro, che notoriamente, penso a Cipro, sono paradisi fiscali, certo, offshore, e quindi già la natura, come dire, dell'organigramma societario doveva far venire qualche sospetto. Banca d'Italia ha fatto questa ispezione e voilà, insomma, si è scoperto che alla fine chi metteva i soldi in questa banca probabilmente non aveva scopi ben diversi da quello della tutela del risparmio. Tenete conto che c'era uno specchietto per le allodole, nel infatti senso qui che volevo andare, davano, sì, dei tassi sulla raccolta dei depositi molto allettanti, cioè davano un 2%, fino a un 2% lordo per depositi a 3, 6, 9 mesi, quindi come dire, remunerazioni molto alte e fuori dalla media del mercato. Cioè, noi sappiamo che un correntista normale di una banca italiana, quando riceve uno 0,01 sul proprio conto corrente, oggi come oggi con i tassi a zero, è già contento. Quando ti offrono un rendimento di quel tipo, evidentemente qualcosa non torna, e così evidentemente è stato. E ricordavi quindi un tasso che saliva dal 2% sui 12 mesi e un tasso invece dell'1,5% sui 3 mesi, sì, quindi veramente c'era uno specchietto. C'era una scalettatura di tassi anche a 3 mesi, il rendimento ovviamente è annuo lordo, però quando uno ti presenta che a 3 mesi hai già un 1,50, un 1,20 annuo lordo, sono tassi fuori mercato evidentemente. Ecco, però la domanda, allora, questo caso qui serio, che però alla fine ci fa un po' ridere, nel senso che ipotizziamo che chi abbia depositato a via Vespasiano veramente sì, dovrebbe, non è significativo dell'intero sistema, ma avrebbe ovviamente dovuto, no, però accorgersi della cosa. Però questo che ti voglio chiedere, è vero che il mercato domina su tutto, immagino che lo sia anche il mercato delle banche, uh-huh, in Europa, ma evidentemente è così facile aprire una filiale in qualsiasi posto della comunità? Il tema è proprio quello, nel senso che c'è evidentemente un'autorizzazione, la vigilanza, quando uno ha dei documenti tra virgolette in regola, è ovvio che fa le sue verifiche e poi l'apertura arriva. Sta poi alla vigilanza andare a capire qual è l'operatività vera, in questo caso tempestivamente, perché l'apertura non era di molti anni addietro, sono andati a verificare l'operatività e hanno scoperto queste gravissime irregolarità che hanno portato alla chiusura. La chiusura di una filiale è un atto forte, non è un atto da prendere a cuor leggero, anche perché essendo l'unica filiale italiana è come chiudere le attività nel nostro paese di questa banca, e quindi credo sia stato anche, mi dicono che la vigilanza della Banca Centrale Ucraina abbia chiamato Banca d'Italia nei giorni scorsi alla luce di questo provvedimento. Certo è che, ripeto, la cosa che da cronista, come dire, ha sollecitato della curiosità era proprio l'architettura societaria, cioè Banca Lettone, e poi scopri che in realtà la quota di controllo è detenuta in Ucraina, che è fuori dall'Eurozona. Quindi quando ci sono queste commistioni strane, questa è un'avvertenza per i risparmiatori futuri, cioè attenzione quando andate a depositare i soldi, ovviamente le garanzie sono di verificare adeguatamente. Quando vi trovate di fronte a una cosa di questa natura, unica filiale in Italia, un'architettura societaria che non si capisce quale razio abbia, ecco, forse è meglio starne lontani, tutto qua. Ecco Fabio, allarghiamo il discorso al settore delle banche, sfrutto la tua competenza prima della pausa di Ferragosto. Immaginiamo Ferragosto proprio come una pausa di riflessione per i risparmiatori. Tutto ciò che abbiamo alle spalle sulle banche, da ultimo gli stress test, da ultimo Veneto Banca, se tu dovessi dire qual è lo stato di salute del nostro sistema bancario? Dunque, che le banche non solo italiane ma in tutta Europa vivono momenti difficili è vero, perché c'è un tema che è quello dei bassi tassi di interesse, cioè quando i tassi sono così bassi chi presta denaro di fatto non ottiene nessun tipo di guadagno dalla sua attività, i ricavi delle banche sono tutti declinanti in questa fase, in più le banche hanno dei forti costi, pensiamo alla struttura di filiali che hanno tuttora le banche, in questa condizione per le banche diventa difficile, e visto la condizione dei tassi bassi non è episodica, in Europa rischia di durare ancora molto a lungo, c'è un tema di business model che fa fatica a reggere. In più hai il tema ovviamente delle sofferenze, che per le banche italiane sono particolarmente forti, così come in Europa hai il tema di tutti quei titoli illiquidi che le banche si autovalutano e di cui il mercato non ha idea se valgano veramente 100 o possono valere 50, quindi c'è una sorta di pregiudizio anche giustificato sullo stato di salute vero delle banche italiane. Certo è che vedere in borsa nel 2016 le banche italiane perdere mediamente il 40% del loro valore in poco più di 7 mesi è stata una reazione del mercato fine eccessiva rispetto alle condizioni. Non dimentichiamo che la stessa cosa accade nel 2011 quando ci fu la crisi dello spread e accade dopo la crisi Lehman, cioè cadute borsistiche così violente le abbiamo avute sia dopo il crollo di Lehman sia nella crisi acuta dello spread italiano. Però nel frattempo il quadro è migliorato, cioè nel senso che le banche italiane hanno fatto aumenti di capitale per 40 miliardi, l'anno scorso hanno comunque sono tornate a fare gli utili dopo un quadriennio in cui non facevano più utili, e quindi la situazione è migliorata sul fronte anche macroeconomico. Lo stress test ipotizza una recessione grave in Europa, ma nessuno vede questa recessione grave alle porte. Quindi è vero che sul capitale le banche oggi sono a posto. Il vero problema è la redditività, che è molto bassa. Certo. Cioè il mercato, quando vede che una banca guadagna mediamente il 3% su il proprio patrimonio, in Germania le banche tedesche guadagnano l'1-2% sul loro capitale, in Inghilterra siamo al 3%. Sono rendimenti troppo bassi per un investitore che preferisce investire in un titolo di Stato. Ecco perché la borsa tende a vendere le banche, perché teme che questo tema della redditività rimarrà una zavorra pesante anche nei prossimi mesi. Grazie a Fabio Pavesi, collega del Sole 24 Ore. Di fatto quindi va rivisto anche il modello di business delle stesse banche. Noi ci fermiamo un attimo, diamo spazio al traffico. Focus Economia. Insieme per l'ultima parte di Focus Economia, siamo all'appuntamento con la giornata in borsa. Prima vi ricordo che prosegue l'approfondimento sui settori utility e petroliferi anche domani e sabato 13 agosto sul Sole 24 Ore, l'appuntamento giornaliero proprio con Investire con il Sole, la guida pratica per analizzare i conti semestrali delle società quotate. Quindi giornata in borsa che ci aiuta a capire meglio il collega di Radio Cor Sole 24 Ore, Andrea Fontana. Buonasera Andrea. Buonasera a te. Grazie per averci aspettato. Andrea, leggo dalle agenzie che Milano chiude in rialzo con livelli pre-Brexit. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire certamente che diciamo in questi giorni c'è stato un piccolo ritorno al rischio. Che si è quantificato soprattutto con un buon recupero delle borse. Nell'ultima settimana Milano ha recuperato un 2%, il FTSE MIB si è portato a 17.000 punti e siamo proprio ai livelli dei giorni del referendum inglese. Oggi è riuscito sul finale anche a non chiudere la giornata in negativo, mentre le altre borse europee, anche se con piccole indicazioni, sono andate in negativo, un andamento se vogliamo in contrasto con quelle che sono state le indicazioni del PIL di oggi, perché nel complesso c'è stato un PIL europeo che nel secondo trimestre rallenta rispetto al primo trimestre. La Francoforte ha perso lo 0,3% in corrispondenza di un PIL tedesco superiore alle attese, e Milano, nonostante l'andamento stagnante dell'economia italiana nel secondo trimestre, è stata la migliore. Ecco Andrea, parlavamo prima del settore delle banche e allora concentriamoci su questo e soprattutto su Monte dei Paschi di Siena. Sì, Monte dei Paschi è stata a lungo la migliore della giornata, ha chiuso peraltro con un rialzo dell'1,2%, in linea sostanzialmente anche con UBI Banca. Questo perché diciamo sono arrivate delle buone indicazioni sul fronte dei crediti in sofferenza, in particolare non che ci fossero dubbi, ma è arrivata la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale sulle garanzie statali per le operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, su cui il Monte dei Paschi è anche impegnata, ed è arrivata anche un'operazione non di grandissime dimensioni, ma che dà un segnale di un mercato che si sta aprendo, cioè l'operazione della Popolare di Bari, che ha ceduto 480 milioni di euro di sofferenze e questo diciamo è un segnale importante per chi si sta prestando, non solo il Monte dei Paschi ma anche Carige e tanti altri istituti stanno apprestando a metter mano a importanti e delicate operazioni, tant'è vero che oltre al Monte dei Paschi forse tra i migliori bancari di oggi c'è stata la Cassa dei Risparmi di Genova, ha guadagnato oltre il 3%. E poi ancora recuperano, Andrea, i titoli legati al petrolio, Saipem e Tenaris. Sì, soprattutto perché c'è stato un allungo del petrolio nel corso del pomeriggio, adesso a New York guadagna oltre il 2% a $44,5 al barile. Un allungo indotto in particolare dalle dichiarazioni del ministro dell'energia saudita, che ha mostrato un'apertura da parte dell'Arabia Saudita a operazioni di riequilibrio domanda-offerta, quindi a eventuali tetti nella produzione di petrolio. Un'indicazione che, se avesse del seguito magari nella riunione OPEC di settembre, sarebbe certamente molto importante per quanto riguarda l'andamento dei costi del petrolio, anche se ricordiamo che non più di due giorni fa i dati ufficiali di Riyadh e quindi la produzione saudita hanno mostrato un record della produzione a luglio, quindi da più parti diciamo gli analisti sono abbastanza scettici sul fatto che questa indicazione saudita possa poi tradursi in misure concrete. Comunque su questo effetto i petroliferi hanno recuperato terreno, in particolare Saipem ha guadagnato l'1,6%, anche Tenaris ha guadagnato lo 0,9%. E continuano poi le giornate positive per RCS, immagino grazie ai continui acquisti di Cairo, ora sopra il 60%. Sì, gli acquisti di Cairo in piccole proporzioni, ma comunque costanti, stanno dando movimento al titolo di RCS, che ha guadagnato oggi l'1,5%. L'imprenditore alessandrino ha acquistato anche con le società personali e non attraverso la società Cairo Communication con la quale ha lanciato l'OPA, che l'ha portato al controllo del gruppo Rizzoli. In generale in questi giorni stiamo vedendo quindi una RCS ben comprata, come anche sono comprate le Cairo Communication, nella convinzione che oggi hanno guadagnato lo 0,7%, nella convinzione che Cairo resti in movimento in queste settimane su entrambi i titoli. Andrea, noi nel nostro prossimo argomento andremo a trattare dell'e-commerce che sta veramente minacciando i miti dello shopping un po' in generale. A conferma di questo c'è il titolo Yux, che conferma invece il buon andamento proprio dell'e-commerce. Sì, Yux sta mettendo a segno un brillante andamento in borsa in questa prima parte di agosto, e segnatamente dopo la pubblicazione dei conti semestrali che hanno mostrato un'azienda in crescita. Peraltro ieri nel settore dell'e-commerce sono arrivati anche i conti di un altro gruppo in ascesa, come la tedesca Zalando, che ha quasi raddoppiato l'utile operativo nel secondo trimestre a 81 milioni di euro, quindi un momento positivo per l'e-commerce, anche se nel settore lusso oggi sono mossi bene anche altri titoli, anche quelli diciamo più focalizzati su strutture di vendita fisica, sì. Come la stessa Luxottica, come Ferragamo, che hanno fatto meglio dell'indice FTSE MIB. Grazie ad Andrea Fontana, collega di Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi chiudiamo qui la pagina dedicata alla borsa e cambiamo argomento. Ultimo argomento della puntata di oggi di Focus Economia, lo dicevamo pochi minuti fa, l'e-commerce che minaccia i miti dello shopping, soprattutto quelli degli Stati Uniti. Ringrazio il collega del Sole 24 Ore da New York, Marco Valsania. Buon pomeriggio, Marco. Marco, allora, tempi duri si dice in America per le famose catene di grandi magazzini, sempre più messe in crisi dal boom degli acquisti online, così quindi anche Macy's deve fare i conti con un calo delle vendite senza precedenti, con la chiusura di altri 100 punti vendita nei prossimi mesi. La posta in gioco è alta, riguarda la sopravvivenza stessa dello storico marchio. Ora, siccome quello che succede negli Stati Uniti anticipa di solito poi i trend che rivediamo in Italia dopo qualche anno, bisogna temere allora chi opera nel commercio tradizionale, l'e-commerce, Marco? Sì, senz'altro il dramma, la tendenza è quella che si abbassa dell'e-commerce, e un arretramento e una crisi ancora diciamo senza soluzioni chiare per i grandi marchi tradizionali dei grandi magazzini, in particolare ricordavi Macy's, ma anche lo stesso Walmart, colosso diciamo così delle vendite a basso costo, ma che oggi, nonostante il suo raggio d'azione globale, si trova chiaramente in difficoltà. Macy's, come dicevi, ha riportato un bilancio in contrazione con profitti quasi azzerati e con un calo delle vendite, e soprattutto ha diciamo così, ammesso di dover sostanzialmente chiudere 100 negozi su oltre 700 grandi magazzini sugli oltre 700 che ha, quindi una buona percentuale, sostanzialmente dicendo che valgono di più in questo momento questi grandi magazzini come real estate, come immobili, come mura, che non come luoghi addirittura per quindi lo shopping. Valgono più le mura che il contenuto quindi che vi è dentro. Esatto, e Walmart, solo per ricordare l'altro elemento significativo di questi giorni, si è buttato nella più grande acquisizione di strettamente di e-commerce avvenuta negli Stati Uniti ad oggi, cioè l'acquisto di Bet.com, una startup tuttora in perdita, che ha comprato per 3,3 miliardi di dollari proprio per cercare di dare spinta alla sua frontiera online, al suo e-commerce che sta perdendo piede nei confronti del grande rivale, insomma, che poi è della grande realtà nuova, che è poi quella di Amazon, certo, che ci continua a correre come più che mai. Ecco Marco, ricordiamo che il titolo di Macy's a Wall Street è crollato di quasi il 50%, e i concorrenti evidentemente stanno guardando anche al futuro, quindi cosa fare da grandi, verrebbe da dire. Quando uno è stato un colosso del commercio tradizionale, però come può rivedere il proprio futuro? Cosa può essere Macy's da qui a qualche anno? ma diciamo secondo quello che loro pensano e credono, i piani che hanno a questo punto delineato, hanno promesso agli investitori che una buona parte dei risparmi che genereranno grazie a questa riorganizzazione, a questa e a questa vendita di asset verrà proprio reinvestita sulle e-commerce, sulle frontiere dell'online e nei punti vendita più redditizi. Ecco, si sta creando anche una divaricazione molto chiara tra i centri commerciali, i grandi magazzini in località dove questi sono redditizi e invece in centri commerciali di serie che vengono invece abbandonati perché appunto ritenuti a questo punto non più redditizi, non più produttivi. Si sta puntando, e questa probabilmente sarà la risposta che cercheranno di dare tutti i colossi tradizionali dei grandi magazzini, su una riorganizzazione, una revisione, un rimpicciolimento della loro presenza, diciamo, fisica, puntata sulle località e sui segmenti dove la loro presenza appare redditizia, e un'espansione sul fronte online, questa è appunto anche la risposta di Walmart. Appare difficile invece recuperare contro l'altro segmento che sta avanzando, che è quello dei retailer veramente a bassissimi prezzi, che hanno poca presenza ma che puntano tutto sugli sconti. Ecco, la corsa agli sconti eccessivi non sembra una strada che a questo punto che possono percorrere questi grandi marchi. L'altra grande domanda è se sarà però efficace la loro riscossa online. Finora i tentativi che hanno fatto non sono stati tra i più non sono stati di particolare successo, certo, come dimostra la continua avanzata di Amazon, quindi non è quello, rimarrà la grande incognita di tutto. Perfetto, grazie a Marco Valsania, collega del Sole 24 Ore che ci parlava da New York. Direi che per oggi è tutto. Un ringraziamento allora a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Andrea Roccabella in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24, la passione si sente.